Sicuramente quello che volevamo esprimere nel documentario era, come dire, lo spirito poetico, comunque qualcosa d'altro che c'è nella nostra attività che non è solo attività imprenditoriale, no? E quindi la possibilità di poter trovare anche in un'attività che comunque deve avere una sostenibilità economica, quello che io, fra virgolette, chiamo uno spirito poetico. E chiaramente questo spirito poetico, come diceva prima Massimo, si infrange nella realtà che purtroppo non è solo la questione dei neonicotinoidi o di altri insetticidi, è una questione che da noi, per esempio, probabilmente la questione più importante sono i cambiamenti climatici, quindi con periodi di siccità che sono sempre più estesi e più intensi. Ma i pericoli sono sempre dietro l'angolo, le possibilità ci sono e stanno nel ritrovarsi, nel discutere insieme, nel trovare insieme soluzioni comuni, nel rifiutare in alcuni casi, lo sappiamo benissimo, nella possibilità che abbiamo nella nostra vita incasinata di tutti i giorni di poter agire e scegliere in maniera diversa anche quando non solo consumiamo, ma come dice Folletto, coproduciamo, no? Quindi questo è un concetto interessante, sì, perché comunque anche se il cosiddetto consumatore non mette mano nella terra o nell'allevamento, ha la possibilità di coprodurre in qualche modo, di orientare e deve essere informato. Io dicevo prima della responsabilità degli apicoltori, cioè in tutto questo casino ambientale che ci coinvolge, perché l'ambiente sono le nostre vene, sono le nostre ossa e tutto il resto. E anche noi abbiamo la nostra parte di responsabilità. Io quando ho iniziato a fare l'apicoltore, ad esempio, una delle malattie più importanti che ormai affligge l'apicoltura mondiale, in Italia da metà degli anni Ottanta, che è un acaro, quindi un pidocchietto, una zecca anzi, che si chiama Varroa destructor, e non esisteva. Ora, nel corso di questi decenni sono state usate una tale quantità di molecole diverse per il controllo di quest'acaro che quando voi andate ad analizzare un pezzettino di cera ci trovate di tutto. Quindi la possibilità di agire per produrre in maniera sana è data innanzitutto proprio da questa relazione stretta fra produttore e consumatori. Cioè io non potrei far produrre il miele biologico se non avessi la possibilità non di venderlo a un prezzo maggiore anche, ma di venderlo direttamente ai consumatori e quindi a un prezzo accettabile per me e a un prezzo conveniente o accettabile per il consumatore. E poi se pensate che, per ritornare alla faccenda dei neonicotinoidi, avevo portato l'ultimo numero dell'Informatore Fitopatologico, quindi una rivista specializzata del settore, allora c'è un piccolo articolo che dice accertata la responsabilità della CCD, si chiama in inglese, del spopolamento degli alveari, è un ente di ricerca americano e israeliano ha individuato in un virus il responsabile di questo spopolamento e ha già pronto il rimedio. Vedete che il circolo vizioso è sempre, sempre si perpetua praticamente. È è sempre quello. E poi l'articolo, lo farò vedere, da qualche parte, eccolo qua, è proprio l'ultimo numero di ottobre 2008, e poi l'articolo che sta anche in prima pagina è Difendi la difesa, una petizione iniziata in Inghilterra da parte degli agricoltori per opporsi alla prossima riforma, insomma, del codice che, europeo per quanto riguarda gli agrofarmaci. Cioè si sta facendo una battaglia per evitare che ci sia una restrizione delle molecole che si possono utilizzare in agricoltura, anche se sono, diciamo, sospettate o provate di essere cancerogene, oppure, insomma, tutta una serie di problematiche, fra l'altro qui le enumerano, però dice se ci levate queste, ci levate la possibilità di avere il reddito. Allora, di fronte a questa cosa, cioè anche il nostro atteggiamento, io per esempio ho tanti amici apicoltori che fanno chimica e che nella loro cultura il fatto di passare dal Roundup, che è un erbicida fra i più famosi, davanti agli alveari, significa, diciamo, come dire, fare un buon lavoro, un lavoro pulito, cioè essere presente. Cioè passare il diserbante davanti agli alveari per loro è una cosa, cioè, culturalmente positiva. Allora, io all'inizio mi arrabbiavo molto. Ora cerco, sempre arrabbiandomi interiormente, di fargli capire, insomma, che si può fare in altra maniera e curare i propri alveari in altra maniera. E che questa è una delle poche possibilità che abbiamo noi di sopravvivere. 3 anni fa abbiamo iniziato un percorso con gli apicoltori siciliani per la valorizzazione del miele di Sicilia, con uno di tanti di questi marchi di qualità territoriale che ormai abbondano, un IGP miele di Sicilia. Allora c'era il problema più forte, probabilmente era quello di vendere il miele, diciamo venderlo bene. Ora anche per noi il problema è di produrre il miele e di far sopravvivere le api. Io non riesco, avevo 200 e più alveari quando abbiamo fatto quel documentario, ho cercato di moltiplicarle in questi ultimi 2 o 3 anni quando abbiamo fatto questa cosa, ma invece ora avrò in questo momento più o meno poco più di 150 alveari, cioè non sono riuscito non solo praticamente ad aumentare il numero, ma neanche a mantenere, nonostante gli sforzi. Commentavamo prima che stiamo lavorando il triplo per produrre la metà, e quindi con un reddito, diciamo. E nonostante questo, io credo che ci siano tante possibilità, sempre con quella cosa di unirsi e trovare, per esempio, per il miele, io credo veramente, diciamo, buona parte del testo di questa cosa l'ho scritto io. Io credo veramente che il miele sia uno dei prodotti agroalimentari che esprima in maniera più forte i territori. E territori come quello che abbiamo visto, per esempio, della Stragalo a 2000 metri d'altezza sull'Etna, dove gli amici vignaioli mi scuseranno, però le viti non ce le possiamo mettere, non ce le possiamo piantare. E il miele è una delle possibilità proprio di tirare fuori questo succo della terra, di tante terre diverse, dalla Lombardia alla Sicilia, al Nord Africa, eccetera. E quindi abbiamo proprio la possibilità di valorizzare i nostri prodotti con queste strategie comuni. Finisco qua perché...